avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale, son visage pâle, de femme fatale, qui me fut fatale, de femme fatale, qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tenté. Una delle connotazioni sensoriali che io attribuisco ai luoghi che attraverso, perlomeno la prima che mi coglie, che mi impressiona, che lascia una traccia su di me, è quella olfattiva. Io riconosco le strade dal loro odore, ma capiterà a molti di voi. Le strade hanno una gamma infinita di odori, presentano una gamma indefinita di diverse fragranze, dalle più sgradevoli alle più profonde, a quelle che immediatamente fanno balzare alla nostra memoria olfattiva brani perduti, dimenticati, affondati nel gorgo dei ricordi della nostra esistenza passata. L'odore del cibo è uno degli odori più forti che ci colpisce quando attraversiamo una strada. Io ricordo nella mia città di origine una piccola via laterale rispetto alla strada dove si svolgeva il mercato del bestiame il martedì. Era via Mazzini, detta anche via Nova da quelli che ancora davano i vecchi nomi alle vie, dove si vedevano mezzadri e mediatori di animali il martedì a fare i loro affari. Poi c'era un vicolino laterale che conteneva due diversi luoghi di soddisfazione dei propri bisogni fisiologici. C'era il pubblico rinatoio e di fronte c'era un vecchietto che friggeva i filetti di baccalà. Andavano contadini, mezzadri e mediatori di bestiame in questa via laterale nelle mattine di prima di gelida tramontana che flagellava il centro di Perugia, vuotavano la vescica e andavano a comprarsi il frittino di baccalà con il bicchiere di vino bianco. Io sono stato allevato, cresciuto a frittini di baccalà e vino bianco, a cominciare da bambino quando ci andavo accompagnato da mio padre, crescendo nelle giornate di scuola, nei foschi e bui anni 70, le mattine in cui anche noi eravamo indignados e giravamo sparuti per le vie della città alla ricerca di anfratti accoglienti per portarci le compagne di scuola, ci fermavamo anche noi dal venditore di frittini di baccalà. Beh, questo odore misto tra orinatoio pubblico e frittino di baccalà ha fortemente intriso la mia fanciullezza. Andando avanti ci sono strade segnate da alcuni luoghi che si riconoscono appunto dall'odore di cibo. La mensa dei poveri di un'altra via della mia città natale, con l'odore di minestrone, che è lo stesso odore di minestrone del refettorio scolastico dei Salesiani, che ti impregna, è grasso, è unto, sa di patate lesse, sa di pomodori frollati, sa di strutto animale, che comunque fa parte della nostra esistenza. È un altro odore legato appunto al cibo. Poi gli odori dei mercati, il mercato del pesce che lascia la sua traccia anche quando vengono smontati i banconi e portata via la mercanzia. E poi andando ancora, le rivendite, l'odore che si sente la mattina a Piazza del Panto, quell'odore di caffè tostato di un famoso bar che c'è lì vicino, che da piccolo non capivo cosa fosse quando mi accompagnavano a Roma, mi sembrava l'odore di pizza, in realtà era l'odore del caffè tostato. Poi quell'odore di pizza buona, bianca, romana, quella col sale sopra, che è buona appena calda, se uno la prende già a mezza giornata diventa una suola di scarpe gommosa, fa schifo, ma appena calda, sfornata, è stupenda, perché c'è quella patina di olio fresco che viene messo sopra e quei grani di sale grosso, viene la culina in bocca soltanto a pensarlo. Poi l'odore delle pizzerie, poi l'odore dei rivenditi di cibo e poi ultimamente, a me piace molto, ma a mio personalissimo punto di vista, alcune strade hanno cambiato completamente la loro mappa olfattiva. Laddove c'era appunto l'odore di fritto di baccalà, di polpette di ceci, a seconda della città d'Italia, budella di animale che si mangia nei panini, il lampredotto che si mangia in Toscana, trippa bollita dentro il panno, una cosa mi vengono i brividi solo a pensarlo, ma vai a toccare a qualcuno, dice toglimi i panini fatti la trippa bollita, è una cosa meravigliosa, però dipende dal punto di vista. Beh, le mappe olfattive cambiano, perlomeno nel quartiere dove abito io, che è un quartiere lungo il Tevere a Roma, è cambiato moltissimo. Ultimamente l'odore principale è quello di spezie orientali. Sembra di attraversare un souk, sembra di attraversare quello che era soltanto l'odore di alcune città che erano relegate al viaggio, alla vacanza, alla villeggiatura, alla scoperta. Oggi l'abbiamo sotto casa. Odore di spezie orientale, odore di curry, odore di curcuma, odore di particolari pietanze che per noi sono diventate familiari, ma che fino a poco tempo fa rappresentavano una singolarità. Odore in altri quartieri di zighinì, di peperoncino, di pietanze berbere, e ancora di più poi l'odore terrificante dei ristoranti cinesi, che oggi si chiamano giapponesi, ma semplicemente perché ormai l'onta nella ristorazione cinese di basso conio è tale che hanno dovuto reinventarsi e fingersi giapponesi, ma sono sempre i soliti cinesi. In quel caso è odore di spazzatura al 100% puro. Il fritto si unisce a una sorta di ricerca delle viscere, della turpitudine culinaria, e ci si va per puro masochismo, per capire fino a che punto ti porta davanti un'indefinibile pietanza spacciandotela per cibo. Poi c'è l'odore del kebab. Io so che fra poco entrerò probabilmente in dissenso con una persona che ci sta ascoltando, ma io amo il kebab più di me stesso. L'ho scoperto in età tarda, ma vedere quella sorta di rotolone di ciccia che gira lentamente davanti al fuoco, che tagliano una fettina, già c'è l'acquolina in bocca, ti danno quella fettina e te la mangi e senti proprio tutto il vero sapore della carne. Io odiavo la carne, da piccolo masticavo la fettina e poi la smaltivo personalmente mettendomela in tasca e liberandomi via via. Ho sempre odiato la carne. Il kebab mi ha fatto riprendere il contatto con la carne. Certo, l'odore di kebab, sentirlo dalle parti di Piazza Mazzini fa un po' impressione, non siamo abituati. Beh, voi cosa pensate della mutazione delle mappe olfattive delle vostre città e soprattutto della mutazione delle nostre abitudini culinarie? Non tanto quelle del pranzo, della cena, della colazione, del pranzo casalingo, ma degli spuntini estemporanei, del mangiare per strada, veloce. Quanto è cambiato quest'uso? Quanto vi sentite inquinati, colpiti e mutati nelle vostre abitudini dalla multietnicità del cibo, dalla fusion culinaria che ogni giorno colpisce e intramezza le nostre transumanze cittadine? Facciamo un kebab. Come lo facciamo? Oh, che adesso allora, va molto di moda. Lo facciamo con l'agnello. Ok? Io ho arrostito. Che è anche un classico del kebab. Del kebab. Ho arrostito un agnello semplicemente in forno. Ho fatto una cottura molto morbida. Taglio in questa maniera. Voi capite perché non si può dimagrire a prova del fuoco? Ecco. Però il kebab. Però il kebab è kebab. Poi farselo a casa è bello, no? Perché il kebab va sempre mangiato avvolto nella carta di alluminio. Buono, eh? Era buonissimo. Io non posso andare avanti così con questo sapore, questi odori e questo trucco. Bravo, adesso... Bonci. Certo, Bonci, se il kebab fa venire l'acquolina in bocca anche ad Antonella Clerici, che è la quintessenza della rappresentazione tradizionale della mangiatrice di carne nazionale, qualcosa sta cambiando, profondamente cambiando nella nostra struttura, nella nostra mentalità. 800240024, che ne pensate del kebab? Che ne pensate dell'involtino primavera? Che ne pensate dell'odore differente che vi coglie e vi attacca le papille gustative? Antonella, buongiorno. Buongiorno a lei. Per gli odori che cambiano, che non ci sono più, io ho chiamato anche per quello. Io sono piemontese ma mia mamma è sarda, per cui ho questo ricordo fortissimo di quando andavamo in Sardegna, ero bambina, che appena sbarcati c'era in Sardegna quello che io definisco odore di Sardegna, che non so dirle assolutamente che cos'è, però era un odore di sole, un odore di terra bruciata dal sole, di mirto, insomma un odore completamente diverso da quello che io sentivo qui in Piemonte. E purtroppo sono un po' di anni che non so se è cambiato il mio naso, ma io questo odore non lo sento più. Ecco, lei avverte per le strade, anche se vive in una città piemontese, una mutazione degli odori e allo stesso tempo una corrispondenza di cibi che hanno modificato la mappa delle città? Senz'altro. Mi faccio un esempio, lei del kebab, visto che il primo argomento, il primo oggetto di attenzione è proprio il kebab, cosa ne pensa? Beh, a me non piace, quindi è un odore che per me è sgradevole. A me non piace l'agnello, non mi piace troppo il fritto, quindi però è molto presente, quindi bisogna tenerne conto. Come per esempio dicevo prima, andando a scuola da bambina io costeggiavo un ospizio di vecchi e passando lì al mattino c'era questo odore di mele cotte, di ospedale, insomma un misto, che anche adesso quello la melina cotta della mattina che favorisce l'attività intestinale. Quindi è logico, la mattina c'è l'odore di mela cotta, a pranzo l'odore di minestra, la sera l'odore non so di cosa, di patata lessa, non so esattamente cosa, ancora non ho fatto questa esperienza, ma la farò tra poco avendo già un piede nell'ospizio. Abbiamo al telefono Umberto Buratti, sindaco di Forte dei Marmi. Signor sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'ho fatta ascoltare l'introduzione di questa trasmissione. Ho ascoltato la sua introduzione che mi ha affascinato. L'ha affascinato, però la pensiamo un po' diversa rispetto al kebab. Il sindaco di Forte dei Marmi ha fatto un provvedimento per cui ha vietato la somministrazione di cibi etnici lontani dalla tradizione locale a Forte dei Marmi. Ci spieghi un po' meglio qual è stata la sua azione e soprattutto da cosa è stata motivata? Beh, ecco, innanzitutto va chiarito che non è un provvedimento che vieta su tutto il territorio comunale, ma è limitato al centro storico del paese, Forte dei Marmi è un piccolo paese, e al litorale, che sono le due zone sulle quali il piano del commercio nostro da sempre ha cercato di tutelare determinati, diciamo, le varie attività. Insomma, ecco, elenchiamo i prodotti del cibo da passeggio locali che venivano messi in crisi dal kebab. Forte dei Marmi, non so se lei conosce. Sì, chi è che non lo conosce, certo. Molte persone che venivano da ragazzi, oppure chi, quando io parlo con alcuni sia a Milano piuttosto che a Roma, altre città, e mi dicono subito, le focaccine del Forte, le focaccine di Valele, ricordo subito, va anche in quel caso non solo agli odori ma anche ai gusti. E come erano fatte, come sono fatte queste focaccine? Le focaccine sono molto semplici, sono rotonde, noi le chiamiamo anche schiacciatine. Quelle con rosmarino? No, non c'è rosmarino da noi, perché sono più piccole, ci viene messo il sale sopra, di solito è un sale abbastanza grande, sale grosso, e un po' d'olio, è semplice, quindi acqua, farina, però... Ecco, quelli erano da sempre, anche da bambini, quello che andavamo a comprarle quando costavano con 5 lire, te ne davano quasi. Ma la focaccina aperta con dentro il kebab non potrebbe essere un'idea, non lo so. Senta, eventualmente questa cosa però non può, quello che abbiamo escluso noi, nel centro storico e nel lungomare, nel senso che il luogo come tale, perché vede, lei ricordava tutti gli odori, io ricordo, credo per tutti noi ci affascina il profumo del pane, no? Figuriamoci, certo. Quindi sono quelle cose, però... Che poi con l'età matura diventa la vera croce, che non dovremmo mangiare pane, meno possibile. Però invece come è buono il pane, è una cosa incredibile. Ma l'intervento nostro rientra in un'attività che fin dall'inizio io... Cioè come un piano regolatore che dice tuteliamo alcune caratteristiche. Noi che abbiamo cercato di recuperare è un po' il genius loci del nostro paese, cioè il valore del luogo in cui vivi, il valore anche perché è un valore turistico reale. Poi la gente viene a Forte dei Marmi a vedere qualcosa di diverso rispetto al quartiere Prati di Roma. Noi creiamo, è un po' come ci sono tanti non luoghi oggi in giro, no? Assolutamente, sì. Se lei va, senza offendere nessuno, va tutto lungo le autostrade, lei un autogrill, sono tutti uno uguale all'altro. C'è lo stesso culatello, lo stesso salame, chiamano tutti allo stesso modo, il panino capri, queste cose qua, ecco. Ma se noi, l'altro giorno mi ha chiamato un giornalista spagnolo dicendomi ma allora non potrà esserci un ristorante che fa la paella, dico, un ristorante spagnolo che fa la paella, dico, scusi, ma se lei viene a Forte dei Marmi cosa vuol mangiare, la paella oppure uno spaghetto con le arzelle? Quindi ci conforti, sindaco, poi lei anche diciamo, un esponente del Partito Democratico, quindi dovrebbe essere lontano l'idea di una qualsiasi discriminazione di tipo etnico per la diversità. Ma infatti non è questo. Questo ci rassicura, perché non vorremmo abbracciare campagne, non so, qualcuno già mi scrive, perché i venditori di kebab non votano, ma gli altri, quelli che fanno le schiacciatine, sì. No, guardi, il discorso è, anche in McDonald's, nel centro del paese, noi cerchiamo di opporci a questo. Queste sono state battaglie in tutta Italia, onestamente, perché era un cambiamento radicale. Ma io capisco che un piccolo centro, ripeto, come c'è una salvaguardia lecita ambientale delle strutture architettoniche e dell'arredamento dei giardini, del selciato, ci sono state a Roma, stanno facendo battaglie fra il San Pietrino che provoca lo schiantamento dei motorini, però è tradizionale, e l'asfalto che rende Roma uguale a tutte le altre città ma salva la vita ai motociclisti. La stessa cosa lei la applica al cibo. Il cibo è un elemento di arredamento olfattivo, quindi nella percezione multisensoriale di un centro cittadino il cibo ha la sua importanza, e quindi se si mantiene il colore della facciata di un edificio, si deve mantenere anche l'odore del cibo. Ho interpretato male il suo pensiero? Questo è il senso, anche perché se lei a Forte dei Marmi non trova, perché vede, Forte dei Marmi le grandi firme sono venute, hanno aperto il negozio, sono tutte grandi firme, sono scomparse le botteghe, e tante persone mi chiedono, infatti, queste botteghe, gli artigiani che c'erano una volta. Per la parte della somministrazione di alimenti e bevande abbiamo detto, vediamo se riusciamo a salvaguardare almeno questo, soprattutto nel centro del paese. E c'è riuscito, perché, diciamo, con questa sua iniziativa? Ma diciamo che con questo noi tentiamo, no? Cioè, cerchiamo di... Ma esiste uno strumento concreto, reale? Cioè lei può impedire di somministrare kebab? Si può, la legge lo permette, è costituzionale? Noi abbiamo fatto questo piano delle funzioni. Nel piano delle funzioni abbiamo escluso l'apertura di nuove attività nel centro del paese, ad esempio abbiamo detto anche le banche, agenzie di assicurazione, agenzie immobiliari, cioè tutta una serie di attività che a nostro, la valutazione che noi abbiamo fatto, andrebbero già, come dice, sono alcune due banche storiche, ma vorremmo vedere che magari domani non è che arrivano tutte banche e trasformano il piccolo centro di Forte dei Marmi nella City, a noi non interessa questo. Sì, le banche stanno arrivando un po' dovunque, questo è vero. Quindi noi vorremmo, e ci stiamo cercando di far sì che questo luogo, lei quando viene dice io desidero venire a conoscere un luogo, conoscere il luogo ma la sua identità. E sa, molte persone che vengono dalle città vengono a ricercare questo, ma lo sa perché? Perché hanno perso i loro luoghi, hanno perso i luoghi dell'infanzia, allora ci chiedono. Lo sa qual è il rischio però, signor sindaco? È di creare dei parchi a tema, che i luoghi diventano dei parchi a tema, diventano delle grandi Disneyland o Gardaland, come e le vuoi chiamare. E noi diciamo di no a questo, allora diciamo manteniamo, cerchiamo di mantenere invece, perché le persone che vengono mi dicono, sindaco, veda di mantenere questo paese così com'è, come io lo ricordo quando venivo da bambino. Certamente ormai è trasformato tantissimo per quello che riguarda il centro, le grandi firme che hanno invaso ogni luogo. Fermiamoci un secondo, signor sindaco, prego. Le faccio sentire qualche altro ascoltatore, se lei ha ancora un po' di tempo ci accompagna, perché è importante quello che dice lei, ha un suo fondamento, non è semplicemente la protesta oltranzista di chi deve mantenere un'identità e non vuole assolutamente fare i conti con gli altri. Lei dice il valore del nostro luogo per cui la gente viene, ci porta anche giustamente passaggio di turisti, turismo, attività economica, via dicendo, è che noi ci manteniamo con la nostra identità architettonica, paesaggistica. In realtà se cominciamo a fare l'elenco dei fast food, dei ristoranti cinesi, dei venditori di kebab, via dicendo, diventa come la stazione Termini a Roma, e quindi tanto vale rimanere qui accanto in zona piuttosto venire a Forte dei Marmi. Laura, come la pensa? Sono perfettamente d'accordo, buongiorno Nicoletti, perché questo discorso proprio dei fast food trovo che abbia modificato molto, soprattutto la percezione degli odori, anche in una città come Milano, sebbene non ci siano grandissimi profumi, anzi. Non è che sia una città che è passata alla storia. Particolarmente però, soprattutto per quanto riguarda il traffico, che per quanto riguarda gli odori non è che aiuti a migliorare. Diciamo che c'è questa sorta di basso continuo di monossido di carbonio che rende un po' difficile individuare altri odori. Anche per i migliori nasi. Sì. Quindi poi, questo, però ricordo, i migliori nasi lasciano gran parte di ciò che usano abitualmente dentro le acque Sì, decisamente. Comunque ci sono, sapendo dove sono posizionati questi fast food, li riconosci a quasi a un chilometro per gli odori, l'odore proprio del, dell'olio. Ecco, del soprattutto, ecco, soprattutto lei, dei luoghi dove si fa il kebab, visto che il kebab è nel nostro immaginario il maggior attacco, sì, alla tradizione culinaria e quindi anche olfattiva e di gusto. Cosa ne pensa? Ce ne sono tanti, veramente cominciano ad esserci veramente tanti. A me piace, non mi dispiace, però ce ne sono veramente tanti. Sì, d'accordissimo, perché come profumo, come aroma, come sapore, decisamente buoni, molto buoni, piacevoli. A chi piace poi la carne, sinceramente, può esaltarla, perché comunque è sempre una carne gustosa. Il profumo pure, perché mischia aromi, cioè fa già comunque anche, ecco, pensare... Ma cosa ha sostituito il kebab? La pizzeria, la pizza al taglio, il venditore, stupendo, di supplì? Questo... Il pane, perché per esempio a Milano si trovano tante panetterie, che comunque in certe viuzze riesce ancora a captare, percepire il profumo, e quindi quello è un odore fantastico. Penso forse che non ce ne siano di più buoni. Allora, fermiamoci un attimo, Laura, devo dare la linea alle informazioni della borsa. 800 24 00 24, il tema mi sembra abbastanza centrato. La mappa olfattiva di una città racconta anche la storia di una città. Come le sentite cambiate? Vi dà fastidio questo cambiamento? O pensate che nella sovrascrittura di ogni realtà che a me attua il passaggio del tempo ci debba essere anche una sovrascrittura olfattiva delle nostre città? Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Per fare il kebab, la prima cosa serve la carne. Quella carne è pollo e tacchino. E puoi mettere quello che vuoi, dipende dai gusti. Di solito si fa completo e si mette una salsa piccante, salsa allo yogurt, che è una salsa di yogurt aggiunto di cetrioli, olio extravergine e sale. Insalata, pomodori, cipolla, ketchup e maionese. Oggi avevo voglia di kebab. In questa video ricetta voglio farvi semplicemente vedere il procedimento che io ho imparato guardando una ragazza che preparava. 800 24 00 24, il kebab, ma come tutto il cibo esotico, ormai è entrato nel nostro immaginario, nelle nostre allucinazioni culinarie. Cosa ne pensate? Cosa pensate della novità, del cambiamento, di quello che ha sostituito i cibi da strada, i cibi veloci, quello che mangiavamo quando facciamo la merenda a scuola o negli spuntini quando eravamo più giovani, o quando i primi impegni di lavoro ci costringevano a portarci dietro qualcosa da mangiare. E queste mutazioni preoccupano qualcuno. Il sindaco De Forte dei Marmi ha preferito delimitare l'area del centro storico, del centro cittadino, alle attività tradizionali, per salvaguardare una sorta di genius loci. Cosa ne pensa Hassan? Buongiorno. Sì, buongiorno Melo, che sono un grandissimo ascoltatore di questa radio, grazie dei programmi che fate tutti i giorni. Lei da dove è nato, Hassan? Io sono nato del Marocco, sono 25 anni che vivo in Italia. Sì. Volevo contraddire questo sindaco praticamente. È un provvedimento, è un decreto che non serve a niente, perché lui si è dimenticato che l'Italia ormai è multietnica, ci sono quasi 6 milioni di immigrati e questi hanno anche la necessità di mangiare o bere quello che a loro piace. E sono rimasto anche sorpreso tantissimo per il discorso in Toscana, proprio in Toscana, il provvedimento del genere, che praticamente sta imitando solo gli amministratori leghisti praticamente. No, ma il sindaco non può essere accusato di essere leghista, è un sindaco del partito, non c'entra nulla. No, è un provvedimento che hanno fatto i leghisti, sì, per il nord-est, perché siccome vivo al nord-est, ormai non fanno più questi provvedimenti perché ormai fa parte del passato, perché l'Italia ormai è multietnica e certe abitudini di immigrati, perché lui si è dimenticato che ci sono tanti muratori, tanti lavoratori stranieri che hanno la necessità di mangiare quello che vogliono, e questo è un problema. Ma oddio, c'è anche chi piace, se permette, anche a me il kebab non dispiace, cioè non posso mangiare una volta ogni 10 giorni, non è che è il mio pranzo quotidiano, però ogni tanto mi viene voglia di mangiarlo. Sì, lei la mette sul piano, diciamo, del lecito diritto di ogni cittadino, anche straniero, di mangiare il proprio cibo. Sentiamo subito il sindaco di Forte dei Marmi, visto che poi deve lasciarci che fretta, Umberto Buratti, ricordo, sindaco di Forte dei Marmi. È chiaro che questo tipo di eccezione qualcuno doveva fargliela, signor sindaco, quindi vediamo normale, come risponde. Ma certo, ma è normale. Qualcuno in questi giorni mi ha rappresentato anche delle posizioni contrarie, ci mancherebbe. Le danno del leghista, ecco questo. Ma sai, accade anche questo purtroppo. Beh, intanto io credo che un sindaco, io sono nato e cresciuto a Forte Dame, il mio paese, quindi lo conosco molto bene, un amministratore deve anche cercare di tutelare il paese e il proprio paese. Io, vede, una cosa credo che è la tolleranza, una cosa è il rispetto, sono due cose un po' diverse, ma c'è anche una necessità di rispettare determinati luoghi, l'impegno nostro, come diceva lei, a cercare, sì, tutti noi siamo cresciuti nei luoghi dove siamo cresciuti, abbiamo apprezzato, no? Anche quella che era un po' la storia, che poi era, penso nell'enogastronomia, è la storia della nostra cultura, del nostro paese. Se posso leggere un messaggio che mi ha arrivato su Facebook, penso di un suo concittadino, Adolfo, dice: Forte è diventata settica, non c'è più un paese ma una vetrina di figone commesse che si atteggiano da padrone, non c'è più una pescheria, solo bar da fighetti. Se guardi le mie foto, lo scrivo già da tempo, e mette delle foto di Forte come se lo immaginava lui. Sì, sì. Infatti, ad esempio, per quello che riguarda il recupero di questo, noi abbiamo un'area che è il mercato, dove la frutta e verdura, che è una grande tettoia, diciamo, e c'è ora un concorso di idee che scade nel mese di dicembre per il recupero di quest'area, creare delle botteghe, proprietà comunale, per poi dare spazio a quelli che attualmente vengono frutta, verdura, il pesce piuttosto che la carne, ma dare spazio anche a degli artigiani. Perché? Perché vede, Forte dei Marmi, come dicevo prima, le grandi firme sono arrivate, si sono imposte con chiaramente mettendo il denaro e quindi a affitti molto alti, hanno conquistato un po' tutto il centro. Infatti questo continua a scrivere questo ascoltatore: Forte è diventata roba da ricchi, in via Montauti, ora Montauti, ora appannaggio di grandi firme, c'era la pescheria con i suoi odori, la frutta e verdura, il fornaio, il meccanico. Ora sarebbe impossibile per gli affitti che sono improponibili. Quindi c'è, diciamo, quello che lei sta cavalcando in realtà è un dissenso reale. Ecco, ma infatti quindi vedere almeno nella somministrazione alimenti e bevande, guardi, le dico una cosa, sabato sono venuti dei giornalisti indiani che stanno visitando la Toscana. Loro hanno chiesto di mangiare vegetariano, gli è stato preparato chiaramente un pasto, una cena a base di questo, e è stata data la bruschetta, che è tipica della nostra è tipica dell'Umbria, è roba nostra. Sì, ma anche da noi si usa molto, perché il pane tostato con un po' d'olio e il pomodoro sopra, e noi ci mettiamo anche l'aglio, però anche loro, e anche noi l'avevamo messo, che a loro piace, poi agli indiani, e la polenta, il farro, il cavolo nero, che è tipico della Toscana, e hanno apprezzato tantissimo. Lei pensa che il farro, che oggi è una delle cose più fighette, si può mangiare, ai miei tempi, per dire che una famiglia era in povertà, dice, pensa, mangiano il farro, esatto. Lo davano alle galline il farro, ecco, agli animali. Ma questo loro lo hanno apprezzato tantissimo, ma sono venuti proprio per conoscere, perché già conoscevano così di nome, però voler gustare, e gustare quel cibo nel luogo, in questo luogo, cioè nel luogo nel quale è nato, dove, perché io credo che il sindaco è molto chiaro il senso della sua battaglia, quindi lei l'ha espresso. Questo è il senso. Io poi rispetto tutti i popoli, tutte le cucine, come ho detto è la parte del centro del paese che è vietata. Lei vuole tenere un'isola in cui la caratteristica del paese, siccome fa parte, diciamo, del valore del paese, sia mantenuta. È chiaro, signor sindaco. Sentiamo altri ascoltatori. Francesco. Eccomi qua. Sì. Un abbraccio da San, tanto per cominciare. Sì. Perché siete amici? Un ripensamento. Siete amici? Come mai lo abbraccio? Lo abbraccio perché, vabbè, io adoro il kebab, ma al di là di quello, cioè, secondo me è uno schiaffo quello che Forte dei Marmi ha fatto per tutta questa... Ma però il sindaco l'ha spiegato. Sono sempre in posizioni tranquille, non è che l'integrità di un popolo si misura dal kebab o dalla schiacciata. Io vorrei dire una cosa, è come se, in una città bellissima come Rabat, come Casablanca, per esempio, gli dicessi no, tu nella pizzeria lì non la puoi aprire perché... E quanti ristoranti in America, per gli italiani, ci sono e ci sono stati, eccetera. Secondo me è una chiusura proprio, capisco quello che dice il sindaco, che è vero, però capisco anche Hassan, che magari la sua cultura è il kebab piuttosto che... Guarda, le posso dire una cosa, Francesco, io non ho voluto, tutte quelle che noi consideriamo tradizioni culinarie autoctone, magari hanno radici antichissime, dei cibi particolari per cui i sindaci scendono in piazza, magari se li hanno importati gli arabi qualche generazione fa, quindi si mangia qualcosa e comunque tutto lo stesso pomodoro che sembra la radice della nostra cultura, rosso pomodoro, cioè non esisteva prima che venisse scoperta l'America, quindi è un po' difficile dare autenticità di un luogo legato a un cibo, ma la stessa polenta, la nostra polenta, la polenta viene dalle Americhe, prima non esisteva la polenta e la gente mangiava di tutt'altra cosa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Per fare fagioli alla messicana ci vogliono 230 g di fagioli russi, una salsiccia e mezzo, 100 ml di passata di pomodoro, olio, aglio e peperoncino. Le uova alla greca. Vediamo insieme la ricetta. Ci serviranno 8 uova, 100 g di feta. Oggi vi propongo il couscous di verdure. Gli ingredienti sono sedano, carote e cipolle tagliate a cubetti. Allora, questa qui è la ricetta del riso alla cantonese di casa mia. Qui nella pentola con un po' di olio di girasole c'è del cipollotto verde tritato. Stiamo parlando questa mattina dei cibi esotici, dei cibi particolari. Ieri ho letto la notizia, non posso citare con esattezza il paese, mi sembra in Islanda o qualcosa del genere. È stato vietato alle signore di mangiare in pubblico vegetali che abbiano delle parvenze allusorie ad atti innominabili alla radio, quindi non si può sgranocchiare una carota, non si può mangiare un cetriolo, non si può fare niente del genere. Vedete che molte volte il desiderio di limitare comunque le piacevolezze culinarie porta degli eccessi esasperati. Mi stanno scrivendo su Facebook tutti gli ascoltatori e allo stesso tempo frequentatori delle aree web parallele a questa trasmissione che hanno un'attività legata alla somministrazione di cibo. Mi chiama Manfredo Lampredottore, che produce lampredotto, ha un banco di lampredotto, dice servono lampredotto, è quella cosa che ho citato prima, panini con la trippa dentro, che io nemmeno a un chilometro vorrei soltanto vedere, però ci vanno pazzi, piace l'idea, e dice che servono appunto degli incentivi per mantenere queste attività, dice io soffro della concorrenza del kebab. Poi Maria Castaneda, la melogamne messicana, che anche lei ha uno spaccio di cibi messicani in una città del nord, adesso non mi ricordo bene, del Piemonte, dice non è questo, non bisogna chiudersi la cucina di altri luoghi, lo dico io che soffro perché qui la gente vuole soltanto Barbera e Panissa, e invece Maria Castaneda vuole dargli le sue tortillas con dentro cose piccanti, ma non le vogliono. Sentiamo Riccardo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Io avevo questa cosa interessantissima, però c'è secondo me un fatto di qualità alla base, no? Cioè, se il sindaco di Forte dei Marmi è in grado di garantire un controllo anche sulla qualità, sull'originalità del prodotto locale, allora va bene. Ah, bravo, ha detto quello che mi ha tolto le parole di bocca. Io e Intonti ci stavamo dicendo all'intervallo. Ma se dobbiamo finire come a Fontana di Trevi a Roma, dove bravo, il nome con le bandierine italiane, il Chianti di petrolio e tutti questi buttadentro travestiti da centurioni danno matriciane improponibili. Perfetto, no, soprattutto guardi, a parte le cose schifose danno al centro romano spacciandole per cibo nazionale, vedi queste povere già obese signore tedesche, giapponesi a frotte che si mangiano della spazzatura pensando di mangiare, che ne so, rigatoni alla matriciana, chissà, roba preconfezionata che magari fanno anche quelle ai cinesi. Lei pensa invece, nelle città d'arte esistono, ma come nei paesini, i terribili gazebo dei prodotti naturali, hanno tutte le stesse caratteristiche, insegne in legno scolpite, pacchettini fatta con vecchia carta da pacchi e lo spago, scritte con il pennarello, tante citazioni della nonna, dello zio, del contadino. Mi ha portato un amico mio, che è buonissimo, devo dire, una sorta di Viagra calabrese, che erano dei pomodorini piccanti, che erano buonissimi, ci siamo mangiati con grande piacere, devo dire, anche con effetti sorprendenti. Ma in realtà erano tutta una confezione, un vasettino, con una cartuccina vecchia scritto a mano, con un nastrino che chiudeva, c'era sempre una nonna, uno zio. Ci abbiamo una sorta di ricostruzione tarocca della naturalità, del cibo naturale. Questa roba in realtà la fanno in delle grossissime catene alimentari, le producono, cambiano l'etichetta, e quello che va bene per la Calabria molte volte va bene anche per la Val d'Aosta. È d'accordo? Io sono d'accordissimo, ma c'è anche un altro fatto, perché allora è meglio mangiare una buona insalata greca. Oggi taroccando anche... Beh, quella me la faccio a casa da solo, compro la feta e ci la metto dentro. Benissimo, cioè voglio dire, mi pare che lei sia di Perugia, no? Sì. E quindi una città d'arte per eccellenza. Beh, se è Perugia, con questi tutti i negozietti del vecchio e del Levi Sandri sul corso... Sì, la pasticceria. E da pochi altri si mangia, perché le rosticcerie italiane sono diventate odori, emanano odori molto peggiori. Sì, sì, ma guarda, anche i vecchi polli allo spiedo che si pigliavano la domenica in rosticceria, non era poi tutta questa cosa. Andiamo avanti, Enrico. Enrico. Buongiorno Nicoletti. Architetto. Buongiorno. Architetto. Buongiorno, argomento interessantissimo. Il cibo è una delle parti, ma nasconde dietro l'aspetto della globalizzazione che va appiattendo la cultura, perché lo so, però il nostro paese si caratterizza proprio per questo. Ma vede, quello che io voglio dirle è che lei, come tanti di noi, apprezziamo quando andiamo a Gubbio piuttosto che a Toronto, perché sia a Gubbio che a Toronto troviamo due cose completamente diverse, e questo fatto è importantissimo. Perché proprio, scusi architetto, c'è un altro fenomeno, non possiamo fare a meno. A Gubbio, città che conosco bene, esiste questa ricostruzione tarocca di un medioevo fantastico che esiste solo nella mente delle proloco che fanno le feste con la balestra. La stessa cosa vale per il cibo. C'è una ricostruzione fittizia del cibo tradizionale che non esiste più. Tanto vale allora, lo dico per paradosso, per provocazione, la sovrascrittura totale di tutto ciò che c'era prima. Vediamo cosa succederà, perché se dovessimo tenerci la tradizione dovremmo ancora brucare le radici degli alberi e mangiare le bacche delle piante. Quella è la vera tradizione che ci accomuna tutti. Giusto, è interessante la contaminazione, ma è la salvaguardia delle culture, che è una cosa secondo me molto importante. Io sono d'accordo, io poi sono molto flessibile in queste cose, amo sovrascrivere il mio stesso pensiero, le mie stesse convinzioni, i miei stessi affetti, figuriamoci il cibo che mangio. Però è vero, però c'è da essere una giusta, intelligente misura, sia nel salvaguardare, sia nel approcciare alle diversità che in fondo ci arricchiscono, ci divertono, ci piacciono, suscitano nuove sensazioni e stimolano i nostri sensi stanchi, asfittici. Marco, buongiorno. Buongiorno, io non sono molto d'accordo con quello che veniva detto prima, ma comunque dica il suo punto di vista, allora. Sì, volevo raccontare la mia esperienza, che comunque le mie emozioni, perché nel momento in cui io per 5 anni della mia vita ho mangiato moltissimi kebab quando studiavo all'università, ora vedo la mia situazione invece, diciamo, culinaria edica completamente diversa, perché tornato poi in Sicilia è difficile trovare dei kebabari di qualità. A Milano avevo il mio kebabaro di fiducia con i suoi profumi, i suoi sapori. Qui invece per trovare un kebab che sia fatto bene e quindi senza... Io so maionese... che a Roma ci sono dei macellai turchi che lo forniscono a vari kebabari, mi sono informato perché mi piace, che fanno questo kebab apposta con carni bianche, ben costruito. È un po' difficile costruirlo il kebab, fare il mammozzone di carne compressa e poi l'affare che gira, io non so dove si acquisti, piacerebbe avercelo a casa, perché il bello è vederlo che gira lentamente e ci vuole il tagliafettine di kebab. Però siamo arrivati un po' alla conclusione, la cosa divertente è che noi siamo anche il cibo che mangiamo. Io ricordo che un periodo che ho avuto per qualche anno delle assistenti cingalesi in casa, io e la mia famiglia avevamo anche un odore diverso, perché mangiavamo tutti i giorni quelle spezie, ci sembrava una grande figata, e oggi siamo cambiati. Ma cambiare probabilmente è una delle maniere migliori per sentirsi ancora vivi ed esistenti. Grazie al professor Chiappini, grazie a Fabrizio Intonti, a domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.